e pochi altri repubblicani cercarono di organizzare un'insurrezione, ma le barricate erano difese solo da poche migliaia di repubblicani che non furono in grado di reggere la controffensiva degli oltre 30.000 soldati mobilitati. Gli insorti subirono oltre 400 morti. Altre città della Francia seguirono l'esempio di Parigi, ma anch'esse fallirono, ed il 10 dicembre ogni tumulto era stato schiacciato. Il Secondo Impero dette inizio al saccheggio della Francia da parte di una banda di avventurieri della politica e della finanza, ma anche ad uno sviluppo industriale senza precedenti. Luigi Napoleone iniziò una pesante repressione di ogni dissenso, ordinando l'arresto di oltre 26.000 persone. In quel periodo Parigi aveva 2 milioni di abitanti. I quartieri di Montmartre e Belleville erano zone di periferia abitate da operai che attuavano una resistenza al regime instaurato da Napoleone III. Le strade erano lastricate da cubetti di porfido che spesso venivano usati contro la polizia. Fu anche per questo che vennero costruiti i nuovi boulevard, pavimentati senza cubetti di porfido, per iniziativa del prefetto Haussmann, che dichiarava: «Sono stati pensati in modo che noi possiamo mettere due cannoni in fondo, possiamo spostare le truppe e la cavalleria in fretta per poter reprimere i cortei dei rivoluzionari. I grandi boulevard servono per quello». Il 28 settembre 1864 venne fondata a Londra l'Associazione Internazionale dei Lavoratori, quella che poi sarà chiamata la Prima Internazionale. La sezione francese fu costituita l'anno dopo, diretta da tre prudoniani, gli operai Henri Tollen ed Ernest Fribourg ed il giornalista Charles Limousin. L'associazione francese, inizialmente tollerata dalle autorità, in parte perché non sembravano ancora chiare le sue finalità, poi perché si ha fiducia in Tollen, che era in ottimi rapporti con la corte, e infine perché, secondo le tesi di Proudhon, i suoi dirigenti sembravano limitarsi ad auspicare interventi a favore del mutualismo, a dichiararsi contro gli scioperi, contro il lavoro femminile e soprattutto contro ogni azione rivoluzionaria. Quando però l'Internazionale protestò contro la politica di protezione dello Stato Pontificio e quando il 3 novembre 1867 respinse a Mentana il tentativo garibaldino con l'aiuto determinante delle truppe francesi e organizzò con i blanchisti una manifestazione a Parigi sulla tomba di Daniele Manin, il governo reagì ed il 20 marzo 1868 la sciolse. Ascoltiamoci ora l'Internazionale di Potier, scritta durante la Comune di Parigi. A voi, dannati della terra, gli eredi della schiavitù, è l'ora della nostra guerra, l'ora che non attende più, del passato quello che rimase, lo butteremo tutto giù. Il mondo cambia dalla base, nulla sarà più come fu. È la lotta finale e domani sarà l'intera nazionale, l'intera salvarsi che da sé. Battiamo quando è caldo il ferro, soffiamo nella forgia affinché ci renda il mal tolto lo sgherro, il padrone di suoi lacchè. della lotta finale e domani sarà. Fasulla, nessun dovere al ricco dà, diritto è una parola nulla per chi muore di povertà, le tasse ci succhiano il sangue, ci opprimono le autorità e la miseria in cui si langue nella vostra legalità. È la lotta finale e domani sarà l'internazionale, l'intera umanità. È la lotta finale, tutti uniti sarà internazionale, l'intera umanità. Ai loro orrendi fasti assurdi, gli squali della proprietà, cos'han mai fatto se non furti sul lavoro che l'uomo fa? Fusa nelle loro cassaforti, la ricchezza del mondo è che i frutti del lavoro estorti reclami il popolo per sé. È la lotta finale e domani sarà. Da tutto il mondo un solo coro, dalle campagne alle città, è il gran partito del lavoro e la forza nell'unità. E da chi vuole la nostra carne, da tutti i corvi e gli avvoltoi, sapremo il cielo liberarne e sarà il sole su di noi. È la lotta finale e domani sarà. Sarà l'internazionale, l'intera umanità. Il secondo impero alla fine degli anni 60 era in crisi. Nelle elezioni tenute il 23 e il 24 maggio 1869, l'opposizione repubblicana raddoppiò i consensi, ottenendo 3 milioni di voti contro i 4 milioni e 300 mila dei bonapartisti, che perdono così quasi un milione di voti. Il movimento operaio era in crescita, malgrado divieti e repressioni, e nel 1869 si assisté a un'ondata di scioperi spesso repressi brutalmente. Alla crisi interna corrispondono i fallimenti in politica estera. Per indebolire l'Austria, Bonaparte favorì l'unità italiana, alienandosi i clericali senza guadagnarsi l'alleanza del nuovo Regno d'Italia, e la Prussia continuò a rafforzarsi unificando la Germania. Napoleone III contava di uscire dalla crisi ricorrendo alla vecchia arma dello sciovinismo. Una guerra patriottica, pensò, può unificare il paese, ridare slancio al regime e ridimensionare la Prussia. Ma la guerra avrebbe dovuto risultare vittoriosa perché il suo piano si realizzasse. Una sconfitta infatti avrebbe segnato la fine dell'impero, ma Bonaparte, abituato alle avventure, tentò l'ultimo azzardo. Il 19 luglio 1870 Napoleone III dichiara guerra alla Prussia. La decisione è presa superficialmente, senza preoccuparsi di procurarsi degli alleati, dell'impreparazione dell'esercito e dell'inettitudine dei suoi capi. Al contrario, la Prussia militarmente aveva nel frattempo accumulato una potenza militare, quindi in realtà la Francia non aveva nessuna speranza di vittoria. L'ambasciatore francese a Washington, Prévost Paradol, da molto tempo avvertì che la Germania aveva molto accresciuto la propria potenza militare, ma rimase inascoltato. Alla notizia che la Francia aveva dichiarato guerra alla Prussia, scrisse a Parigi per avvertire che i prussiani erano in grado di schiacciare l'impero francese, dopodiché si suicidò. Infatti la guerra va malissimo. Già ai primi di agosto dal fronte arrivano notizie di sconfitte disastrose e Parigi piomba nel panico. I rari tedeschi che si aggiravano ancora per le strade di Parigi vennero aggrediti per le strade. Al Bois de Boulogne si cominciò ad abbattere alberi per erigere barricate e difendere la città, ma soprattutto le piazze si riempirono di gente che protestava contro il governo. Napoleone rimase con l'esercito fino all'ultimo, cioè fino al 2 settembre, ma poi si arrese, inviando un messaggio al re di Prussia in cui dice: «Caro fratello, non avendo saputo morire tra le mie truppe, non mi resta che affidare la mia spada a vostra altezza. Rimango un buon fratello di vostra altezza». Il grosso dell'esercito francese, con il suo imperatore, venne circondato dai prussiani e capitolò a Sedan. Napoleone III venne fatto prigioniero. La Federazione Parigina della Prima Internazionale organizzò una manifestazione per la pace e pubblicò un manifesto rivolto ai proletari tedeschi e spagnoli perché si opponessero alla guerra. Il 4 settembre la folla marcia sul Parlamento e sul municipio di Parigi. L'impero crollò come un castello di carte e fu proclamata la Repubblica. L'imperatrice Eugenia fugge da Parigi su una carrozza che le ha prestato il suo dentista. I ministri fuggono all'estero, ma la Repubblica è stata costituita a Parigi senza preoccuparsi di cosa pensa il resto della Francia. La Francia profonda, infatti, non è repubblicana, ma monarchica, cattolica, conservatrice e detesta Parigi. I prussiani erano alle porte della città, le armate francesi erano o rinchiuse senza speranze a Metz o prigioniere in Germania. In questa situazione il popolo concesse ai deputati parigini della vecchia legislazione di costituirsi in governo di difesa nazionale. Tutti i parigini atti alle armi erano nel frattempo entrati nella Guardia Nazionale per la difesa della città ed erano in gran parte operai. In Francia, infatti, come anche nell'Italia dell'epoca, esisteva un'istituzione, la Guardia Nazionale. Si trattava di un'associazione di volontari che prestavano un servizio militare inquadrati regolarmente, che operavano durante il loro tempo libero. Era una tipica organizzazione borghese che serviva a mantenere l'ordine pubblico. In Italia, per esempio, per la lotta al brigantaggio nel meridione, la Guardia Nazionale veniva reclutata fra i proprietari e i possidenti ed ebbe un ruolo fondamentale accanto all'esercito. Anche in Francia la Guardia Nazionale nasce come un'organizzazione borghese e quindi conservatrice ed era costituita da 384.000 uomini divisi in 254 battaglioni. Marx però scrisse: comunque finisca la guerra, ha insegnato al proletariato francese a usare le armi e questa è la migliore garanzia per il futuro. Ed ora ascoltiamoci Dimmi bel giovane, che racconta l'esame di ammissione dei giovani volontari alla Comune di Parigi di Francesco Bertelli. Dimmi bel giovane, onesto e biondo, dimmi la patria tua quale, tua quale. Adoro il popolo, la mia patria e il mondo. Il pensier libero è la mia fe, è la mia fe. La casa è di chi l'abita, è vile chi lo ignora. Il tempo è dei filosofi, il tempo è dei filosofi. La casa è di chi l'abita, è vile chi lo ignora. Il tempo è dei filosofi, la terra di chi la lavora. Addio mia bella casetta, addio. Madre amatissima e genitor, io pugno intrepido per la comune. Come leonida saprò morire, saprò morire. La casa è di chi l'abita, è vile chi lo ignora. Il tempo è dei filosofi, il tempo è dei filosofi. La casa è di chi l'abita, è vile chi lo ignora. Il tempo è dei filosofi, la terra di chi la lavora. Il nuovo governo della Repubblica è formato da liberali, borghesi moderati, per lo più avvocati. Lo scopo del governo e delle forze reazionarie moderate era di ottenere la pace con la Prussia alle migliori condizioni possibili, per poi regolare i conti con le forze rivoluzionarie e confermare una Repubblica moderata e anche rimettere sul trono gli Orléans. Essi offrirono la presidenza al generale Trochu, governatore militare di Parigi, il quale accettò, ma chiese una garanzia, e cioè che il nuovo governo difendesse la religione, la proprietà e la famiglia. Nel secondo indirizzo, sulla guerra franco-prussiana della Prima Internazionale Socialista, possiamo leggere: «Salutiamo l'avvento della Repubblica in Francia, ma in pari tempo soffriamo per apprensioni che speriamo si dimostrino infondate. Questa Repubblica non ha rovesciato il trono, ma ha solo preso il suo posto, rimasto vacante. È stata proclamata non come conquista sociale, ma come misura nazionale di difesa. Essa è nelle mani di un governo provvisorio composto in parte di orleanisti notori, in parte di repubblicani borghesi. La divisione del lavoro tra i membri di questo governo non promette niente di buono. Gli orleanisti si sono impadroniti delle posizioni più forti dell'esercito e della polizia, lasciando ai repubblicani dichiarati i posti dove c'è solo da chiacchierare. A Parigi gran parte degli abitanti erano operai. Secondo il censimento, gli operai che abitavano nella città erano 500.000. L'orario di lavoro era di 11 ore al giorno e i salari erano talmente bassi che l'intera popolazione operaia viveva in povertà. I quartieri dove erano ammassati nella parte orientale della città erano zone dove la polizia preferiva non farsi vedere. Da anni, da quando l'imperatore ha concesso la libertà di associazione, nei quartieri operai si tenevano riunioni per parlare di politica, per parlare di socialismo, per parlare dei diritti delle donne. Si moltiplicavano le cooperative, le società di mutuo soccorso e c'erano anche delle sezioni dell'Internazionale Socialista. Già il 5 settembre, infatti, si tenne una riunione dei delegati dell'Internazionale, nella quale vennero istituiti comitati di vigilanza nei quartieri. Ma come abbiamo detto, gli operai di Parigi non erano solo organizzati, erano anche armati. L'esercito francese era stato sconfitto, l'imperatore era stato fatto prigioniero, ma la guerra non era affatto finita. Non era stato firmato un trattato di pace, quindi l'avanzata dei prussiani continuava. Il nuovo governo repubblicano voleva finire la guerra il prima possibile. Se la guerra finiva, il governo poteva sciogliere la Guardia Nazionale e ritirare le armi agli operai. Un ruolo molto importante nel governo di difesa nazionale, appena costituito della Repubblica, era quello di Adolphe Thiers. Sebbene il governo fosse guidato dal generale Trochu, Thiers era una delle personalità più importanti e l'ispiratore politico dell'esecutivo. Era un intellettuale molto noto, uno storico famoso, ma soprattutto era un politico di lungo corso. Aveva 73 anni ed era in politica da 50 anni. È conosciuto come monarchico orleanista ed è stato presidente del Consiglio 3 volte sotto la vecchia monarchia degli Orléans. Poi è diventato un oppositore di Napoleone III. I tedeschi stavano invadendo la Francia e raggiungendo Parigi, che si preparava all'assedio. Parigi era difesa da una cerchia di fortificazioni. Il 19 settembre i prussiani, battuti i francesi a Châtillon, a pochi chilometri da Parigi, iniziarono l'assedio della capitale. Il governo si trasferì a Tours, poi a Bordeaux. Il ministro degli esteri Jules Favre andò da Bismarck per concordare le condizioni di pace. Bismarck impose condizioni durissime. La Prussia, che sta per diventare l'impero di Germania, voleva che la Francia cedesse 2 regioni, l'Alsazia e la Lorena. Quindi Favre si mise a piangere, anche se il segretario di Bismarck riferì che non versò una sola lacrima, per quanto si sforzasse di piangere, e la pace quindi ancora non venne firmata. Nonostante le dichiarazioni pubbliche, Favre confessò in una lettera che il governo si stava difendendo più contro i lavoratori di Parigi che contro i soldati prussiani. Jules Favre era un repubblicano moderato e ricopriva nel governo di difesa nazionale il ruolo di ministro degli affari esteri. Era stato uno degli esecutori del massacro del giugno 1848. Favre era stato anche oggetto di pesanti accuse. Il deputato Jean-Baptiste Millier pubblicò documenti legali che provavano come Jules Favre, vivendo in concubinato con la moglie di un ubriacone, fosse riuscito tramite una serie di falsificazioni a carpire una considerevole eredità per i suoi figli, frutto del suo adulterio. Riuscì a evitare lo scandalo in un processo solo grazie alla connivenza dei giudici bonapartisti. Millier, che aveva smascherato pubblicamente i suoi imbrogli, fu fucilato il 26 maggio 1871 per ordine di Favre durante la repressione della Comune di Parigi. Appena salito al potere il 4 settembre 1870, Favre si affrettò a rimettere in libertà i suoi complici, Picard e Taillefer, condannati per falso sotto l'impero. Era inoltre sospettato, insieme a Thiers e altri, di aver ottenuto una provvigione di qualche centinaio di milioni di franchi per la concessione di un prestito ad un importante industriale tessile. Il 31 ottobre 1870, giornata che verrà poi chiamata la giornata delle vittime, scoppia un'insurrezione a Parigi contro il governo di difesa nazionale. La notizia della resa del maresciallo Bazaine con tutta la sua armata il 27 ottobre 1870 fu inizialmente smentita ufficialmente dal governo, ma la successiva missione fece indignare la popolazione. Poi, il 30 ottobre, la notizia della perdita di Le Bourget, un villaggio conquistato e poi lasciato senza rinforzi da parte del generale Trochu, confermò l'idea di incompetenza o malafede del governo. Inoltre, la notizia che Thiers stava negoziando l'armistizio con i prussiani a Versailles fu interpretata da gran parte della popolazione come un tradimento. La mattina del 31 ottobre una grande folla di cittadini e guardie nazionali armate invase l'Hôtel de Ville, il municipio parigino, e sede del governo di difesa nazionale. I ministri presenti furono accerchiati e tenuti prigionieri per alcune ore. Fu proclamata la Comune. I delegati del Comitato Centrale dei 20 quartieri di Parigi decisero di rovesciare il governo e fu decisa la formazione di un Comitato di Salute Pubblica incaricato di indire le elezioni della Comune. Ascoltiamoci ora Popolo che da sempre del collettivo teatrale La Comune di Dario Fo e Franca Rame. Popolo che da sempre stai sulla breccia, incazzato da 10.000 anni e più, nel pesto è diviso, fottuto e deriso, ma quante volte non hai tenuto più, e a testa bassa ti sei buttato, e il baraccone tutto in aria l'hai mandato, quante volte teste bastarde ai padroni hai tagliato. Popolo che da sempre stai sulla breccia, incazzato da 10.000 anni e più. Il vostro sacrificio, compagni, non sarà stato inutile. Noi continueremo a lottare, distruggeremo tutto quello che i padroni e i loro tirapiedi hanno inventato per incastrarci. Le loro leggi, il loro esercito, i loro magistrati, i loro poliziotti, i loro tribunali, le loro galere, le loro scuole, i loro seminari, tutta la loro favola da piangere scritta apposta per noi. Ai padroni hai tagliato. Ma il padrone senza aspetto a Pasqua è sempre resuscitato. Alleluia! Sempre tornato. Alleluia! Da capo un'altra volta un miracolo è tornato. Alleluia! Con capriole, blandizie, promesse, sgambetti, completi, presenti. Alleluia! Riforma! Giudice e poliziotti, sempre da capo il padrone è tornato. Alleluia! Ma come c'è riuscito? Il trucco c'è ed è risaputo, almeno una volta insieme cerchiamo di capire il perché. Popolo che da sempre stai sulla breccia, incazzato da 10.000 anni e più, e bestia diviso, fottuto e deriso, ma quante volte Ma gli insorti si divisero sull'azione da intraprendere. Blanqui e i suoi seguaci volevano rovesciare immediatamente il governo e proclamare la dittatura rivoluzionaria. Altri leader, come i neo-giacobini, chiedevano immediate elezioni municipali per eleggere un nuovo governo. Nella notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre fu raggiunto un compromesso fra gli insorti e alcuni membri del governo, in base al quale si garantiva l'impunità degli insorti e si promettevano immediate elezioni comunali. ma il tentativo fu represso nelle prime ore del mattino del 1 novembre. Sfruttando la confusione, i ministri che erano stati arrestati riuscirono a fuggire. Il governo riprese possesso dell'Hotel de Ville con l'aiuto di battaglioni della Guardia Nazionale fedeli al governo, in particolare le guardie mobili bretoni. Il ministro Jules Ferry e il generale Trochu, che era riuscito a evadere intorno alle 8 di sera del 31 ottobre, ripresero il controllo. Per ristabilire la propria legittimità, il governo indisse immediatamente un plebiscito, il 3 novembre, chiedendo ai parigini di confermare o meno i loro poteri. Il risultato fu di 558.000 sì contro 62.000 no. Anche le successive elezioni municipali vedono eletti elementi repubblicani moderati, tranne che a Belleville, il quartiere operaio di Parigi. Il governo non mantenne i patti stabiliti. Fece arrestare gran parte dei capi rivoluzionari, mentre Blanqui ed altri riuscirono a fuggire. L'assedio dei prussiani di Parigi durò 4 mesi, da settembre a gennaio. La popolazione durante l'assedio soffrì la fame, arrivando a mangiare i cani e i gatti. Addirittura sorsero macellerie canine e feline. Si mangiarono perfino i topi ed addirittura gli elefanti e i cammelli dello zoo. Durante l'assedio si registrarono 42.000 morti in più rispetto all'anno precedente. Morirono molti bambini piccoli per la mancanza di latte. Inoltre, quel dicembre fu particolarmente freddo. La temperatura minima oscillò tra i meno 5 e i meno 20 gradi. Parigi, come abbiamo già detto, era difesa da una grande cerchia di fortificazioni e i prussiani per il momento non attaccarono la città e preferirono aspettare che Parigi si arrendesse. Il 6 dicembre il Consiglio dei Ministri decise di procedere alla resa gradualmente, secondo una proposta di Favre. Il 28 dicembre il Comitato Centrale della Guardia Nazionale denunciò l'inerzia del governo e l'inettitudine dei generali Trochu e Thomas, cui erano affidate rispettivamente la difesa di Parigi e il comando della Guardia Nazionale. La violenta denuncia apparve in un manifesto che sarà chiamato Manifesto Rosso, che venne affisso il 7 gennaio 1871 nelle strade di Parigi, in cui era scritto: «Il governo non ha proclamato la leva di massa, ha lasciato al loro posto i bonapartisti e ha messo in galera i repubblicani. Con la loro lentezza, indecisione e inerzia ci ha condotto sull'orlo dell'abisso. I governanti della Francia non hanno saputo né governare né combattere. La direzione in campo militare è ancora più deplorevole. Le sortite assurde, le battaglie sanguinose senza risultato, i sistematici insuccessi». Il manifesto concludeva chiedendo potere al popolo, potere alla comune. A gennaio, vedendo che Parigi non si era ancora arresa, i prussiani iniziarono a bombardare con l'artiglieria la città. I giornali di sinistra di Parigi iniziarono a scrivere che le chiese dovevano essere trasformate in caserme per la Guardia Nazionale Operaia, che anche i preti dovevano andare a combattere e che il cibo che i ricchi avevano nelle loro case doveva essere confiscato e distribuito alla popolazione. Il 18 gennaio a Versailles venne proclamato l'impero tedesco, tutta la Germania fu riunificata in un unico Reich. Il 21 gennaio la Guardia Nazionale liberò gli insorti del 31 ottobre e il giorno dopo andarono a protestare all'Hotel de Ville. Vennero accolti a fucilate dalle guardie municipali. Ci furono 50 morti e diversi arresti. Il 23 gennaio 1871 Favre raggiunse Bismarck a Versailles per concordare le condizioni dell'armistizio, firmato il 28 gennaio. Favre fece notare a Bismarck la difficoltà di disarmare la Guardia Nazionale parigina, suggerendo che i prussiani avrebbero dovuto pensarci loro, perché disse: «Se tentiamo di togliere i fucili alla Guardia Nazionale, scoppia la guerra civile». Ma è solo un armistizio, non è ancora un trattato di pace. I forti furono consegnati, le armi dei reggimenti di linea e della guardia mobile consegnate e i soldati e i militi furono considerati prigionieri di guerra. ma la Guardia Nazionale mantenne le sue armi e i suoi cannoni, mentre ancora i prussiani non osavano entrare trionfalmente a Parigi ed occuparono solo una piccola parte di Parigi, che era in parte costituita da parchi pubblici, ma anche questa ridotta occupazione durò solo alcuni giorni. Durante questo tempo i prussiani si ritrovarono assediati dagli operai parigini armati, i quali vigilavano accuratamente perché nessun prussiano varcasse i ristretti confini di quel pezzo di terreno. Vennero indette le elezioni per il Parlamento, che deciderà se continuare la guerra oppure fare la pace. L'8 febbraio si tennero le elezioni in tutta la Francia. Le votazioni si svolsero con un terzo del paese occupato dal nemico, con centinaia di migliaia di soldati che erano prigionieri di guerra e quindi non votavano, con una campagna elettorale che durò solo pochi giorni. In tutta la Francia vennero eletti candidati che volevano la pace, ma a Parigi furono votati candidati che volevano continuare la guerra. I deputati che arrivarono da Parigi, cioè dalla capitale rossa rivoluzionaria atea, vennero accolti malissimo da un parlamento che rappresentava la grande maggioranza dei francesi, conservatori, cattolici e in parte anche monarchici. L'assemblea eletta si riunì per la prima volta a Bordeaux il 13 febbraio e il 19 febbraio venne eletto un governo di repubblicani moderati e di orleanisti. Adolphe Thiers ne era il presidente, che ora era diventato un sostenitore di una repubblica borghese conservatrice che difendeva la proprietà e la religione. Per protestare, la Guardia Nazionale sfilò per le strade di Parigi con le bandiere a lutto in una parata che durò 8 ore. Il 24 febbraio si riunirono 2000 delegati della Guardia Nazionale che approvarono la seguente risoluzione. La Guardia Nazionale protesta per mezzo del proprio Comitato Centrale contro ogni tentativo di disarmo e dichiara che occorrendo essa vi resisterà con le armi. Ed ora ascoltiamoci la Marsigliese della Comune. Se ne soyons plus esclaves, sous le drapeau rallions-nous. Sous nos pas, brisons les entraves, 89, réveillez-vous. 89, réveillez-vous. Frappons du dernier anathème ceux qui, par un stupide orgueil, ont ouvert le sombre cercueil de nos frères morts et sans emblème. Oh, la liberté, défendons dans la cité. Depuis 20 ans que tu sommeilles, peuple français, réveille-toi. L'heure qui sonne à tes oreilles, c'est l'heure du salut pour toi. C'est l'heure du salut pour toi. Peuple debout, que la victoire, ils combat tes fiers guerriers. Rosa, la France, ses lauriers, son rang et son antique gloire. N'exaltez plus vos lois nouvelles, le peuple est sourd à vos accents. Assez de phrases solennelles, assez de mots vides de sens, assez de mots vides de sens. France est la plus belle victoire, de tes droits. Ce sont là tes plus beaux exploits que puisse enregistrer l'histoire. Il 26 febbraio Thiers firmò il trattato di pace. Per rassicurare la popolazione era stato garantito che i tedeschi non sarebbero entrati a Parigi. Invece i prussiani imposero il diritto di sfilare in parata sotto l'Arco di Trionfo e sugli Champs-Élysées e occuparono parte di Parigi, ma non si spissero nei quartieri operai. Poi, dopo due giorni, i prussiani lasciarono la città. Nel trattato di pace i prussiani avevano imposto che le forze regolari francesi venissero sciolte, perciò il governo non aveva forze armate. L'unica forza armata a Parigi divenne la Guardia Nazionale. Il 10 marzo l'Assemblea Nazionale decise di trasferirsi a Versailles per condurre dal Palazzo Reale dei Borboni l'attacco decisivo alla capitale operaia ed iniziò a varare una serie di leggi, emanando condanne a morte in contumacia di parecchi capi della sinistra. Decretò la chiusura dei giornali di sinistra, ma soprattutto durante la guerra era stato decretato il blocco degli sfratti, il blocco degli affitti, la moratoria dei debiti ed uno dei primi atti del Parlamento fu di abolire queste misure. Immediatamente una marea di operai, ma anche di bottegai e artigiani, si ritrovarono sfrattati e senza la possibilità di poter pagare i debiti. Come se non bastasse, l'Assemblea Nazionale decise che adesso che la guerra era finita era inutile continuare a pagare quel soldo di un franco al giorno che si pagava ai membri della Guardia Nazionale. Con le poche truppe a sua disposizione, Thiers decise di disarmare la Guardia Nazionale, iniziando dai cannoni. Questi cannoni erano stati acquistati con sottoscrizioni popolari, erano di proprietà della Guardia Nazionale e non erano stati presi neanche dai prussiani. Il 28 gennaio, infatti, erano stati ufficialmente riconosciuti come proprietà privata della Guardia Nazionale e quindi erano stati esclusi dalla consegna delle armi appartenenti al governo, al vincitore, nel trattato di pace. Thiers non aveva nessun appiglio per iniziare la guerra contro la Comune di Parigi, quindi fece ricorso alla spudorata menzogna che l'artiglieria della Guardia Nazionale era proprietà dello Stato. Una grande quantità di questi cannoni era ammassata sulla collina di Montmartre. Il 18 marzo Thiers mandò il generale Lecomte, con le poche truppe di cui disponeva, a impadronirsi dei cannoni della Guardia Nazionale. Le truppe del governo circondarono la collina di Montmartre, poi all'alba cominciarono a portar giù i cannoni. La gente se ne accorse e suonarono le campane a martello. La Guardia Nazionale si armò e la folla iniziò a spingere via i soldati. Il generale Lecomte allora ordinò alla truppa di aprire il fuoco contro la Guardia Nazionale e contro la folla. I soldati si rifiutarono di sparare, fraternizzando con la folla. Il generale Lecomte aveva ordinato per ben 4 volte all'81esimo fanteria di far fuoco sui civili inermi in Place Pigalle e al rifiuto dei suoi uomini li aveva ferocemente insultati. Il generale Lecomte venne arrestato dai suoi stessi soldati, rimase prigioniero per qualche ora con la folla che lo voleva giustiziare sul posto. Dopo un po' i soldati e la Guardia Nazionale si mettono d'accordo, lo mettono al muro e lo fucilano. Insieme a lui venne fucilato anche Clément Thomas, che era stato nominato comandante in capo della Guardia Nazionale di Parigi, il 1 novembre 1870 dal governo della Repubblica di Thiers. E durante la guerra franco-prussiana aveva combattuto non contro i prussiani, ma contro i suoi stessi soldati. E pochi giorni prima del 18 marzo presentò al ministro della guerra un piano per finirla una buona volta col fior fiore della canaglia parigina. Poi la folla andò nel centro di Parigi, occupò insieme alla Guardia Nazionale le caserme governative, la prefettura, il Ministero della Giustizia e mise una bandiera rossa sulla colonna della Bastiglia e sull'Hôtel de Ville. La guerra fra Parigi e il governo di Versailles era dichiarata. Marx da Londra commenta che i governi reazionari che insegnano ai soldati a sparare e a fucilare la gente poi devono aspettarsi che succedano cose del genere. Concludiamo qui la prima parte di Gioia e Rivoluzione, ma anche Sconfitte, dedicata alla Comune di Parigi. Alla prossima!